Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, ci sentiamo in un orario insolito perché la notte di Natale e la notte del 31 dicembre i programmi di Radio 24 saranno leggermente modificati e quindi oggi e domenica prossima vado in onda un po' prima. Buon pomeriggio a tutti di nuovo e stasera non possiamo non parlare del classico per eccellenza del Natale, naturalmente dopo il Vangelo, e cioè il canto di Natale di Charles Dickens, che vi presento nell'edizione appena uscita di Bompiani, tradotto da Sergio Claudio Perroni, che presenta anche il testo originale manoscritto nella sua versione completa, che è custodito alla Morgan Library di New York. Il libro ha 176 pagine, 14 euro. Questo racconto risale al 1843, secondo lo scrittore irlandese Colm Tóibín, che ha scritto la prefazione, ha contribuito a rendere popolare l'idea stessa di Natale. Nella notte che lo precede, fra poche ore rispetto al momento in cui vi parlo, comincia l'avventura di Scrooge, un acidissimo avaro che dal Natale non si fa per niente commuovere, ma che attraverso con gli spiriti del Natale passato, del Natale presente, del Natale futuro, riscoprirà il senso della festa, dell'umanità e della convivialità. E fra l'altro alla nascita di questo racconto è dedicato il film intitolato appunto Dickens, l'uomo che inventò il Natale, del regista indo-britannico Bharat Nalluri, interpretato da Dan Stevens, con Scrooge interpretato da Christopher Plummer. E da questo film sentite qui un attimo la voce di Dickens. Parla di un avaro che è alla vigilia di Natale. E ha un titolo? Certo, Il lamento di un avaro. Storia di fantasmi, canto di Natale, ballata natalizia o giù di lì. Scegli il nome giusto e il personaggio apparirà. Scratch. Scrunger. Avanti. Scrooge. Io invece vi proporrò la voce dello stesso Scrooge, che ho incontrato in uno degli angoli più bui del quartiere milanese dove ci troviamo e dove l'avaraccio si era presentato per un appuntamento d'affari. Dopo molte resistenze, perché Scrooge pretendeva di rispondere alle nostre domande facendosi pagare, Scrooge ha ceduto e si è prestato a questa intervista impossibile, nella quale gli dà voce Philip Daverio. Buonasera Ebenezer Scrooge. Buonasera a voi. Buonasera. Ebenezer Scrooge, ma che cosa le è venuto in mente di dire le parole che ho ricordato? L'abbiamo incontrata qui a Milano e insultava il Natale e quelli che credono nel Natale. Ma perché la pensa così male sul Natale? Perché è l'unico momento in cui non si può andare in ufficio, l'unico momento nel quale bisogna rinunciare a fare i conti. Questo lunghissimo periodo di Natale, che dura addirittura un giorno, è intollerabile. Però, insomma, il clima di Natale mi sembra che prenda tutti. Solo lei riesce a resistere a questo clima. È perché la vita è dura, bisogna fare i conti. Non si possono lasciare disperdere i danari, come fanno tutti in questo periodo. Poi bisogna pure comprare regali. Ma lei non ne fa regali? Beh, io tendenzialmente ne farei anche uno o due ai bambini, se mi convertono. Magari regalerebbe dei libri, spero. Questo forse sì. Questo forse sì. C'è per esempio un libro di questo signor Daverio che va mica male in questo periodo. Sì, forse potrei regalare il libro del signor Daverio. Farebbe bene. Ma che gusto ci prova ad ammassare tutte queste ricchezze che poi non riesce neanche a spendere? Tratta male il nipote, tratta male la povera famiglia del suo impiegato. Cosa fa di tutti questi soldi? Ma hanno un unico scopo, quello di consentire a Charles Dickens di scrivere un ottimo inglese. Cioè, per diventare un personaggio di Dickens si fa di tutto. Si può essere costretti ad essere avari, vecchi, cattivi, si può essere costretti ad essere David Copperfield anche, oppure si può essere uno dei personaggi fantastici dei racconti, si può diventare Mr. Trump è un altro, ma poteva essere previsto anche da Dickens in qualche modo. Si può diventare uno delle, si può inventare la torta di kidney pie, la torta di rognoncino da mangiare in campagna. Cioè, onestamente, bisogna dirlo, Dickens è uno scrittore straordinario, a tal punto che consiglio talvolta di leggerlo in italiano, così uno lo può leggere in inglese dopo. E l'inglese di Dickens è formidabile, in quanto è una delle lingue più musicali che esistano. Cioè, mi ricorda in un qualche modo Dickens, quando scrive di noi poveretti, mi ricorda un po' Gioachino Rossini. È una versione di Rossini in letteratura. Avete in mente i passaggi, per esempio, non lo so, in Rossini la capacità di mediare fra suono tragico e suono ironico. Guglielmo Tell, che parte con delle robe tali che l'ha usata la televisione italiana per fare la chiusura programma, e poi in mezzo si inserisce un canto leggerissimo e il dialogo fra apparente tragicità e oggettiva ironia musicale genera in un qualche modo un cosmo di allegria esistenziale. È lo stesso meccanismo che esiste nella lingua di Dickens. Cioè, Dickens ha queste cose, queste frasi lunghe, poi poetiche, e poi si interrompono e scatta una sorta di ritmica che è un incrocio fra Mozart e Rossini. È quello che lo rende fantastico. A mio parere è un modo per convertire chi ha studiato un inglese di tipo, come direi, commerciale o di tipo politico, e convertirlo e portarlo nella dimensione del grande inglese dell'Ottocento, che è una delle lingue più allegre e divertenti e estetiche d'Occidente. Restando a Dickens e al libro che la vede protagonista, lei si rende conto che Dickens e lei, signor Scrooge, avete inventato sostanzialmente il Natale? Come dice la prefazione dell'edizione che presento in questa trasmissione, questo libro contribuì largamente a rendere popolare l'idea del Natale. Lei è un inventore del Natale che peraltro odia, come mai? Sì, ma perché Scrooge, a mio parere, ha delle azioni sulla diffusione delle immagini di Babbo Natale. Questo personaggio col cappuccione in testa, con la slitta e con le renne, che ovviamente non è roba britannica da sempre, è una cosa che si abbiamo comprato nel nord Europa, l'abbiamo rubata agli scandinavi, che gli hanno aggiunto le renne, gli scandinavi l'avevano rubato ai centroeuropei che avevano preso San Nicola e avevano fatto fare i cioccolatini con la figura di San Nicola in Lorena. Però poi i nordici avevano capito che se gli aggiungevano un po' di gnomo al vescovo, il vescovo mescolato con lo gnomo diventava una figura straordinaria, e quella figura l'abbiamo rubata noi, è britannica ormai. Cioè Santa Claus è una creatura britannica, e Scrooge ha una partecipazione finanziaria. Ah, ecco, è un azionista. Questo è il motivo. Ha una partecipazione finanziaria e ci guadagnerà parecchio, perché questa cosa inizia allora a metà dell'Ottocento in Inghilterra e poi verrà esaltata da uno dei più grandi americani del XX secolo, che non è Kennedy, ma che è Walt Disney. Cioè è lì che diventa un dato stabile. A proposito della civiltà inglese di cui ha parlato, uno dei protagonisti di questo libro è anche Londra, negli aspetti, diciamo, pure più sordidi, ma anche in aspetti insoliti, generosi, allegri, come le diceva. Eh sì, perché Londra è la macrocittà per eccellenza, che contiene tutte le classi sociali, sia quelle agiate che quelle invece molto vicine alla miseria, ma Londra ha un elemento in più che diventa trainante per la modernità. È la prima città dove la figura del bambino assume un ruolo importante. Perché i francesi sono ancora un po' en retard, eh? Si ricordano ancora nell'Ottocento quella roba che scrisse Saint-Simon nel 600, quando fu interrotto un concerto perché la regina aveva perso un lattone. Non si interrompe un concerto perché la regina ha perso un bambino appena nato, dai, abbiate pazienza. La Germania comincia a interessarsi ai bambini, è vero, ma negli stessi anni, con i fratelli Grimm. Ma i bambini dei tedeschi hanno un fracco di problemi, cioè c'è l'orco, non è uno scherzo essere bambino nel mondo di Grimm. Succede. I francesi hanno avuto Perrault, ma Perrault anche lì, fare il bambino in Perrault è un mestieraccio. E i bambini diventano protagonisti liberi nel mondo britannico. È curioso che un mondo che in fondo, da un lato, alla Disraeli, è il mondo che reprime la struttura sociale in un modo drammatico, esalta i poveri diavoli, li assiste in un modo terribile talvolta, però contemporaneamente comincia ad esaltare la figura centrale nella famiglia, che è quella del bambino. Ed è il motivo per il quale noi Scrooge and Company abbiamo deciso di finanziare Babbo Natale, cercando di diffonderne l'uso. E quindi, parlando di orchi, come lei ha fatto, terrà presente che questo libro è anche un libro di fantasmi, ce ne sono tre, spesso presi in atteggiamenti terrificanti. Sì. I fantasmi fanno parte di questo mondo che si sta delineando allora. D'altro canto, anche l'autore Dickens In quel periodo comincia a scrivere anche il testo sulla Casa Incantata. Cioè Dickens è un inventore di gran parte dei miti della modernità, sia questa storia del Babbo Natale, la storia dei fantasmi, la storia di tutto ciò che sarà in un qualche modo la mutazione da una letteratura gotica un po' drammatica e talvolta anche geniale. Pochi anni prima nasce Frankenstein, invece lui trasforma questi miti drammatici, gotici, in miti tollerabili. Cioè i fantasmi di Dickens non sono poi del tutto terribili, sono abbastanza, sono tollerabili, sono quasi conviviali talvolta. E in certi momenti hanno anche il cuore tenero, per esempio lo spirito del Natale presente porge a Dickens due bambini che rappresentano il maschio l'ignoranza e la femmina la miseria. Eh sì, che l'Inghilterra di allora. L'Inghilterra ha da un lato questa agiatezza vittoriana che è straordinaria, con delle invenzioni che per l'umanità sono fondamentali. Fino ad allora non c'era una poltrona comoda in Occidente, nascono le prime poltrone ricoperte integralmente, anche un certo gusto così esagerato, la table à billets, perché si dice che la regina non amasse vedere le gambe delle signore e neanche dei tavoli, quindi era meglio mettere una coperta che le ricopriva tutta. Però cosa sarebbe il mondo moderno senza armchair, senza una poltrona comoda, la famosa Chester che tutti vorrebbero avere da qualche parte in casa? E cosa sarebbe il mondo moderno senza la table à billets, senza i mazzi di fiori, senza le gonne troppo colorate, senza il calico presente ovunque e poi soprattutto senza il Natale? A proposito di questo, che cosa riuscirà a convertirla? È lo spirito del Natale. Lo spirito del Natale alla fine rende buono anche chi è costretto, per poter salvare l'umanità, se stessa, i suoi risparmi, la sua azienda, a lavorare perennemente. Cioè queste poche ore di riposo natalizio, perché i conti hanno il loro diritto, i conti hanno il loro bisogno, queste poche ore convertono. Ma forse un economista di oggi, del nostro tempo, del Novecento, del 2000, direbbe che forse l'ha convertita il mercato, essendo azionista di Scrooge, ha capito che conviene essere buoni almeno alla Natale. Alla fine, a Natale, essere buoni vuol dire aumentare il fatturato. Grazie a Venise Scrooge, interpretato da Philippe Daverio. Buon Natale. Buon Natale a tutti. A questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Philippe Daverio a sua volta ha appena pubblicato un libro dal titolo impegnativo, Finalmente capito l'Italia, piccolo trattato ad uso degli stranieri e degli italiani, pubblicato da Rizzoli, 330 pagine, 29 euro. Lo sforzo di Daverio è doppiamente meritorio, lo sforzo di capire l'Italia, perché egli stesso è francese di nascita, si era trasferito in Italia solo a 17 anni per cominciare a studiare qui da noi. Ma che cosa lo trattenne in Italia? Proprio riflettendo su questa domanda è nato questo libro. L'Italia ha dato molto a Daverio, come riconosce lo stesso interessato, che però ammette di non averci capito nulla, nonostante le soddisfazioni. Per esempio, l'unico riconoscimento ufficiale ricevuto in Italia, che lo inorgoglisce molto e che è particolarmente attuale anch'esso in queste ore, perché si tratta dell'ammissione alla Compagnia di Firenze dei Babbi Natali. Il libro procede per parole e immagini, affrontando tanti temi, aiutandoci anche a ripercorrere alcuni momenti importanti della storia d'Italia, delle polemiche che hanno sempre accompagnato questa storia, del modo in cui leggiamo la nostra storia. Ogni capitolo si conclude con una morale e io ve ne propongo una, quella che si riferisce a un tema che sentiamo tutti molto, quella della forza del campanile, che parte, la trattazione di questo tema nel libro di Daverio, dal confronto tra Chartres e Siena. Questa era l'Italia dei campanili e delle città, che finì per colpa di Machiavelli quando scrisse Il Principe nel 1513. Il 13 non porta sempre bene. A dire il vero, Machiavelli non è colpevole, ma attento analista. E la storia che espone con assoluto acume è quella d'un sogno principesco che le guerre d'Italia hanno in realtà già infranto. Gli scrittori italiani evidentemente presentano la curiosa inclinazione a scrivere delle epoche già revolute e quindi concluse. Dante narra con genio un medioevo che non c'è più, così come Manzoni inventa la sua storia mirabile piazzandola addirittura in un'era politica ispanica, ormai definitivamente cancellata da oltre un secolo di presenza austriaca, e lo fa 20 anni dopo che Ugo Foscolo ha dato alle stampe I Sepolcri. Giuseppe Verdi cerca librettisti che gli forniscano testi sui Lombardi alla prima crociata e sul Trovatore, e diventa contemporaneo solo per La Traviata, in modo da consentire, anni dopo, a Puccini di scrivere La Bohème. Gli italiani tendono a essere passatisti. Lo fanno perché ricordano l'epoca aurea di Siena. Gli italiani non sentono il bisogno di trovare una città più vasta di quella dove già vivono. Questa contiene tutto e il suo contrario, come si addice a un cosmo. Un altro giornalista e scrittore molto popolare, Roberto Gervaso, si cimenta con l'impresa di capire l'Italia e lo fa nel libro Le cose come stanno, l'Italia spiegata alle persone di buon senso, pubblicato da Mondadori, 128 pagine, 17 euro. Qui la scoperta dell'Italia avviene attraverso l'esperienza di vita di Cesaretto, un piccolissimo borghese romano la cui passione per la politica lo porterà a un'incredibile avventura a Washington, dove lo attende un super capitalista temporaneamente alloggiato alla Casa Bianca, che darà una svolta alla vita di Cesaretto. Se in questo periodo andate per mostre, vi voglio segnalare quella su Caravaggio che è in corso a Milano, dentro Caravaggio a Palazzo Reale fino al 28 gennaio, curata da Rossella Vaudrey col catalogo di Schirà. E proprio la curatrice Rossella Vaudrey ha scritto con Paolo Iorio, che è un autore e regista, Il mistero dell'angelo perduto, è pubblicato da Schirà, 138 pagine, 16 euro. Spunto del libro è un dipinto di Caravaggio che non esiste più, e cioè la prima versione del San Matteo e l'angelo, uno dei quadri del celeberrimo ciclo di San Luigi dei Francesi, quadro che sarebbe andato perduto a Berlino, dove era custodito per un bombardamento nel 1945. Ho detto sarebbe andato perduto perché questa è la versione ufficiale, ma sarà vero, si chiede il libro, e lo fa con un'indagine che si svolge attraverso le vicende di tre personaggi, tre studiosi appassionati di Caravaggio, in particolare di questo quadro, indagini che si avviano con le Olimpiadi di Berlino del 1936. E sentiamo proprio l'impressione suscitata da questo quadro in uno dei personaggi, Vica, che si ispira, come l'altra protagonista, a un personaggio realmente esistito. È la percezione che Caravaggio ha della realtà ad affascinarmi. La normalità è la sua straordinaria forza espressiva, potente, unica, coinvolgente, audace, emozionale. Emozionale, l'aveva interrotta Helmut. È strano sentirti parlare di emozioni. Emozionale, aveva proseguito Vica dopo aver lanciato un'occhiataccia a Helmut. Sì, emozionale. Attraversare la pittura di Michelangelo Merisi significa immergersi totalmente in un itinerario all'interno dell'anima. Essere rapiti dalla sua dolcezza e dalla sua veemenza. Per me Caravaggio è San Matteo, l'assoluta autenticità di se stesso. Un povero pellegrino, uno dei tanti che sporco e con vesti lacere si poteva vedere nelle strade di Roma. È lui stesso, Caravaggio, pellegrino alla ricerca della verità e della redenzione. Con la sua arte, Michelangelo Merisi voleva arrivare al cuore della gente comune, come i santi vogliono arrivare al cuore di Dio, toccando emotivamente le coscienze, senza nascondere i dettagli più spiacevoli e più crudi. Ed è la mano dell'angelo che aiuta San Matteo a scrivere il Vangelo, ed è lo stesso angelo ad armare la mano del pittore, perché il suo Vangelo è la tela vuota, bianca, è l'inizio del suo racconto. Un altro artista che regolarmente spopola nelle mostre è Van Gogh, al centro a sua volta di un'esposizione in corso a Vicenza, Van Gogh tra il grano e il cielo. La mostra durerà fino ad aprile, è alla Basilica Palladiana, è curata da Marco Goldini, il catalogo di Linea d'Ombra. Van Gogh potete incontrare nel libro di Jean-Michel Guenassiat. Guenassiat è un avvocato francese che aveva l'hobby dello scrittura e che ha ottenuto qualche anno fa un enorme successo con il Club degli Incorreggibili Ottimisti, tanto da convincerlo ad abbandonare la toga per dedicarsi solo ai libri. Adesso pubblica il Walzer degli Alberi del Cielo, L'ultimo amore di Van Gogh, è pubblicato da Salani, 280 pagine, 16,90 euro, ed è tradotto da Francesco Bruno. Protagonista del libro in realtà è la figlia del dottor Gachet, che curò Van Gogh e ne fu più volte ritratto. ritratto. La ragazza incontra Van Gogh quando ha 19 anni, siamo nel 1890, intesserà una relazione, non si sa bene se intellettuale o qualcosa di più, con l'autore, che comunque presto la conquista. E attraverso le parole di Marguerite il libro descrive con lo stesso impegno sia lo sforzo della ragazza di acquisire la propria autonomia e quindi in qualche misura assumere i caratteri di una protofemminista, e sia le ultime fasi della vita del pittore di Van Gogh, che si suiciderà proprio pochi giorni dopo quell'incontro. Ma sarà stato davvero un suicidio? Anche qua si apre un interrogativo. Lo scrittore conclude con un grande punto interrogativo, peraltro non nuovo sulla fine di Van Gogh. E sentiamo dal libro proprio una testimonianza dello sforzo di Marguerite di emanciparsi dalle abitudini dei suoi tempi. Ignoro cosa porterà domani. Se la mia fantasia, la mia speranza mi giocheranno un brutto tiro e se mi infiammo inutilmente. Ma questa incertezza, questi sogni in sospeso, questo piede che rasenta l'orlo dell'abisso, mi trovano calma, quasi serena, come se non facessi altro che compiere il mio destino e fosse inutile cercare di sottrarsi. Non ho alcuna intenzione di essere ragionevole, né ho voglia di imbrigliare lo slancio del mio cuore e ancor meno di accettare il destino che era stato tracciato per me. Voglio, al contrario, fare ciò che è in mio potere per scoprire la luce. E tanto peggio se ciò dovesse accecarmi. Ho la sensazione di svegliarmi da un lungo torpore, di respirare finalmente e di essere diventata me stessa. Il libro di cui vi ho parlato è un romanzo, come avete capito, ma è basato su documentazioni e testimonianze autentiche che ne fanno un ottimo strumento per accostarsi a questo grandissimo pittore e per penetrare in quell'epoca di straordinari cambiamenti. E adesso sentiamo l'impressione suscitata su un grande scrittore italiano dai visitatori diligentemente in coda a una mostra di Van Gogh. All'esposizione di Van Gogh, i visitatori in folla ordinata fanno la fila lungo le pareti alle quali sono appesi i quadri. Ciascun visitatore ha una sosta di un quarto di minuto, 30 secondi, magari un minuto, e poi va avanti, sloggiato dagli altri che gli stanno alle spalle. Dunque 15-30 secondi per sentire il dipinto di uno dei più famosi maestri della pittura moderna. Viene fatto a questa riflessione di domandarsi che cosa i visitatori realmente sentono. La risposta è che sentono quello che sentono i critici e i conoscitori più raffinati, soltanto non hanno la capacità di esprimere in parole, scritte o parlate, quello che sentono. Gli accade come ai bambini, che sono in tutto e per tutto simili agli adulti, con gli stessissimi sentimenti, ma non sono in grado di comunicarli. Il riferimento qui è una mostra olandese del 1990 e l'autore, che osserva quasi un entomologo che osserva i visitatori in coda, è Alberto Moravia, di cui esce il libro Non so perché non ho fatto il pittore, scritti d'arte 1934-1990, pubblicato da Bompiani, 450 pagine, 35 euro e curato da Alessandra Grandelis, la quale sottolinea nell'introduzione e spiega la passione per l'arte e per la pittura che addirittura Moravia avrebbe preferito alla letteratura. La pittura infatti gli appariva arte misteriosa e ineffabile, e qui nel libro seguiamo le tracce di questa passione che accompagnò Moravia per tutta la vita, come testimoniano questi 90 scritti che sono articoli, introduzioni, presentazioni, ma anche lettere, interventi e colloqui con gli artisti. Siamo partiti da Scrooge e concludiamo tornando all'ambientazione britannica con Natale con delitto di Mavis Daniel Hay, pubblicato dall'Indau, 288 pagine, 19 euro, tradotto da Natalia De Martino. La cena di Natale a casa di Sir Osmond Melbury si fa di anno in anno più tesa fino a culminare in una morte misteriosa che metterà alla prova l'acume del colonnello Halstock, il commissario che dovrà indagare sul caso. Invece un Natale all'italiana è quello proposto da Grafe.it Edizioni, che ha aperto qualche anno fa una collana, Natale ieri e oggi, Quest'anno il titolo dell'edizione 2017, Fiabe di Natale, presenta due brani di due autori, uno classico per così dire, uno contemporaneo. Quest'anno abbiamo Guido Gozzano, di cui viene riproposto Il Natale di Fortunato, e l'altra è Francesca Sanzo, una scrittrice contemporanea che ha scritto Il Natale di Amelia. La protagonista è una bolognese ossessionata dalla preparazione dell'albero di Natale, incombenza che immagino avrete tutti concluso con successo. Il libro ha 72 pagine e costa 6 euro. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo naturalmente due libri natalizi. Il primo è di Gianni Rodari, Un giocattolo per Natale, illustrato da Elisa Macellari e pubblicato da Einaudi Ragazzi, 74 pagine, 12 euro. Questo è uno degli ultimi libri di Rodari, dove un signore racconta quanto sia difficile scegliere un regalo ai figli, fino alla scoperta, avvenuta vagando per Roma, di un telecomando che lo porterà in giro per il mondo. Ai più piccini segnalo Giochi e colori di Silvia Lombardi e Thea Orsi, Magico Natale, pubblicato da Dea Planeta Libri, 9,90 euro, con tanti giochi per cercare di strappare i più piccoli magari in questi giorni dagli smartphone e dai videogiochi. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Carmelo Lauricella e regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi ricordo che anche domenica prossima ci sentiremo alle 17.30, invariato invece l'orario della replica, la domenica alle 6.30. Vi auguro buon Natale e vi do appuntamento domenica prossima.